24 mattino. Dai, ma non c'entra niente Trump, ci sono 40 milioni di disoccupati, gente che non ha veramente soldi, una situazione che non ci possiamo neanche immaginare in Europa, non c'è da stupirsi, Trump non c'entra niente. Chi è che si mette a, diciamo così, nei panni dell'amministrazione pubblica per quanto riguarda incertezza nei tempi per fare questo tampone? Cioè, è una cosa assurda, deve dire i numeri di giorni entro i quali il tampone verrà fatto. Che dire? Sono perfettamente d'accordo. Se tu dai certezza alle persone, e poi le persone ti seguono. Ed è quello che diciamo dall'inizio di questa pandemia. Nel momento nel quale dai qualche certezza, le persone ti seguono. Io non so se sulla questione Stati Uniti, non so quanto c'entri il presidente americano, quanto non c'entri. Di certo sono perfettamente d'accordo sul fatto che queste tensioni siano esacerbate ovviamente dalla situazione che sta vivendo l'America, insomma. Questi 40 milioni di disoccupati, una rete di protezione sociale che è completamente diversa dalla nostra. E quindi questa tensione diventa particolarmente forte. È la seconda parte di 24 mattino, è lunedì 1 giugno, sono le 7:19 minuti e 50 secondi, al microfono c'è sempre Simone Spezia e le vostre voci, se le volete mandare, c'è il 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp audio. Fatevi sentire, dai. La parte, come si diceva, dedicata alla rassegna stampa, ed è una parte, come sempre, che apriamo con un'occhiata alle prime pagine, ai titoli dei giornali. Repubblica apre con il 2 giugno, allarme destra, Salvini, Meloni, Gilea, arancioni e neofascisti, mobilitazione in 100 piazze per la festa della Repubblica. A centropagina si parla degli Stati Uniti, America, il grande coprifuoco, e poi si dà spazio anche ai paletti della Banca Centrale Europea sull'offensiva di Del Vecchio su Mediobanca, che vuole salire al 20%. Il Messaggero, test a chi arriva dalla Lombardia, sceglie questa apertura. Il Messaggero, allerta di molte regioni per le riaperture del 3, il Lazio prepara i tamponi. Più o meno sullo stesso schema, sullo stesso argomento, il Corriere della Sera. I turisti in arrivo da altre regioni saranno tracciati, l'intesa coi governatori. Oggi, tra l'altro, dovrebbe essere il giorno della app, la mitica Immuni, finalmente arriva. La Stampa apre con un'intervista al leader della CGIL, Maurizio Landini. Aiuti al lavoro, sarà crisi sociale. Ancora su Covid, il Fatto Quotidiano, regali ai privati e reparti inutili, s'indaga sul miracolo De Luca, soldi alle cliniche, 18 milioni per due soli malati, ci fa sapere il Fatto. Cosa si può fare, cosa no dal 3 giugno? Il Quotidiano Nazionale. Libero, Conte spende soldi che non ha, il sociologo Ricolfi svuota il sacco, l'Italia rischia il fallimento, il governo adotta ricette economiche irresponsabili. Sulla giustizia, l'apertura del Giornale della Verità. Giudici miracolati è quello del il titolo del giornale. Ora mollano tutti Palamara, ma 84 toghe le ha piazzate lui. I magistrati sono un partito, lo ammettono loro stessi. Titolo invece La Verità. Il Sole 24 Ore del lunedì, che come sapete è un settimanale, l'apertura è sul super bonus del 110%, ecco i lavori in casa pagati dal fisco. C'è spazio per il caos da 30 miliardi delle tasse locali e spazio anche per il turismo che riapre, i 5 punti deboli dello sconto vacanze. Questi i dettagli che troviamo oggi sul Sole 24 Ore. E iniziamo come sempre da qualcosa di laterale, ma non tanto. Però la prima storia che vi voglio raccontare oggi è una storia che prendiamo dal quotidiano La Repubblica e che Qualcosa del film, se vogliamo, e però è una storia vera, è una storia che racconta un po' quello che è successo durante questo periodo di lockdown per le donne che si trovano a convivere con i loro aguzzini, con uomini che le maltrattano. Ed è una storia a lieto fine. Ed è la storia di Alice, così la chiamano. Il pezzo lo firma Alessandra Ziniti a pagina 22 della Repubblica. E come dicevo, è a qualcosa del film, perché una voce al telefono che le dice: scappa ora, subito, esci di casa, corri, ti indico io la strada, saremo lì ad aspettarti, fidati. E adesso che hai il sicuro in famiglia, tra la madre coraggio che ha dato il via all'operazione salvezza e le sue due figlie perdute, dice: io non avrei mai trovato la forza di scappare da sola, ci pensavo ogni notte ma avevo paura, lui mi avrebbe ripreso e chissà come sarebbe finita. La storia appunto è di Alice, siciliana, 45 anni, due figlie di 23 e 24 da un precedente matrimonio, una relazione con un uomo che è diventato presto il suo padrone, soggiogandola completamente, impedendole di uscire di casa, facendola vivere nel terrore, allontanandola del tutto dalla sua famiglia che ne aveva perso le tracce. Il suo telefono era muto da giorni, i profili social chiusi. Non sapevano neanche dove vivesse da quando a gennaio aveva deciso di lasciare il suo paese in provincia di Caltanissetta per seguire il compagno a Catania. Ed è qui che Alice è stata liberata dalle poliziotte dell'ufficio vittime vulnerabili della divisione anticrimine della questura di Catania, un ufficio tutto al femminile. Hanno agito nel giro di poche ore, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto della mamma di Alice. Il telefono di Alice è sempre spento, ma i ripetuti tentativi delle poliziotte di contattarla sono stati il grimaldello che ha consentito di trovarla. Il compagno le aveva installato un sistema di controllo nel cellulare per smistare sul suo tutte le chiamate e i messaggi della donna. E si è subito insospettito di quel cellulare sconosciuto che insisteva a chiamare Alice. L'ha costretta in sua presenza a richiamare. Quando abbiamo sentito la sua voce abbiamo detto che eravamo della polizia. Abbiamo fatto appena in tempo a chiederle se andava tutto bene, che lui si è messo a dare in escandescenze, ha chiuso la conversazione. A noi è bastato per localizzare l'indirizzo di casa. Terrore di una reazione, ma anche la consapevolezza di non essere più sola con la sua paura. In quel momento ho capito che dovevo reagire, dice lei, e dunque ha aspettato che lui andasse in bagno e ha richiamato quel numero. Aiutatemi, voglio scappare, ma non so neanche dove sono, non conosco le strade, non ho soldi. La poliziotta al telefono mi ha calmato. Non preoccuparti, ti guidiamo noi, apri la porta e scappa, veniamo a prenderti. E l'ho fatto senza girarmi indietro. Pochi minuti dopo era appunto a bordo della macchina della polizia. Questa è la storia di Alice che arriva dalla Sicilia ed è una storia appunto a lieto fine e, se vogliamo, anche una storia esemplare di un buon lavoro della polizia da una parte e dall'altra parte, di quello a cui può aver condotto questo periodo di lockdown, di clausura forzata in casa. Nel fine settimana, forse lo saprete, c'è stata questa sentenza, questa decisione da parte del Tribunale di Milano che ha colpito molti perché può aprire una discussione, un dibattito molto ampio su quello che sono i nuovi lavori, e in particolare il lavoro dei rider. Ne abbiamo parlato tanto anche da questi microfoni, spesso ce ne siamo occupati. Ebbene, nella giornata di venerdì, come sapete, come forse sapete, il Tribunale di Milano ha deciso il commissariamento di Uber Italy per la parte di consegna del cibo. L'accusa è quella di caporalato, anche se appunto la questione si riferisce a una cooperativa della quale la stessa Uber Italy si serviva. Ebbene, ci fa sapere il giornale a pagina 17 che è partita un'indagine molto più estensiva, almeno e conoscitiva per il momento naturalmente, sulle aziende che si occupano di trasporto di cibo a caso. Lo racconta Paola Fucilieri a pagina 17 appunto. A monte dell'intera faccenda c'è un'indagine conoscitiva partita a settembre sul fenomeno dei rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio, in particolare a tutela delle loro condizioni lavorative, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal PM Maura Ripamonti del pool milanese Ambiente, Salute e Lavoro. Un'inchiesta che poi ha modificato il proprio orientamento investigativo puntando sul nodo centrale della sicurezza del lavoratore. E dunque che è successo? Che si sono mossi gli uomini delle forze dell'ordine e in queste settimane hanno parlato con più di 1000 rider in tutta Italia, trasmettendo, quando era il caso, evidentemente i dati e le informazioni alle procure. Pensate a quanti problemi creano queste figure che ormai lavorano di fatto per una piattaforma, e ce ne dà nella misura Paola Fucilieri in un passaggio di questo pezzo, nel quale dice: basti pensare che proprio secondo una sentenza della Corte di Cassazione, ricorderete c'era stata una sentenza anche su questo, sono ibridi assolutamente unici nel loro genere. In certe fasi della giornata possono essere equiparati a lavoratori autonomi, ma poi quando accettano l'ordine dalla piattaforma virtuale di food delivery da cui sono stati reclutati, si trasformano in lavoratori parasubordinati e quindi di fatto una doppia disciplina del lavoro per la stessa figura nell'esercizio della stessa funzione. Capite quant'è complicato muoversi, ovviamente per le aziende, per i jus lavoristi ed evidentemente anche per i tribunali. La scuola, grande questione, non solo la questione della riapertura che ormai, come ben sapete, è esclusa, insomma la scuola sta finendo, questa settimana finisce in gran parte d'Italia, ma anche per la riapertura di settembre, perché ci sono problemi e dubbi esattamente anche su questo. La protesta dei presidi, ce ne racconta il quotidiano La Repubblica, pagina 13, con Corrado Zunino: con queste regole la scuola non riapre, ok? Questa è la protesta che inizia ad arrivare dai dirigenti scolastici. In queste ore, alcuni sabato scorso e altri ieri, i dirigenti scolastici hanno trovato sulla PEC d'istituto la comunicazione del Dipartimento per le Risorse Umane del Ministero dell'Istruzione. In 34 pagine annuncia i finanziamenti disponibili per ogni scuola, circa 38.000 euro a istituto, e quindi i compiti dei singoli presidi derivanti da quell'impegno di Stato. Dovrete acquistare il materiale per la sanificazione dei termoscanner, identificare aree verdi e attrezzarle, risistemare gli spazi esterni, smaltire i rifiuti, anche quelli speciali, far partire gli appalti per l'edilizia interna, cambiare gli arredi, acquistare o noleggiare tablet e hardware. Ci chiedono di trovare da soli soluzioni che il ministero non ha, segnala una dirigente al quotidiano La Repubblica. E i racconti sono abbastanza impressionanti, devo dire la verità, perché abbiamo per esempio Piera Guglielmi, dirigente dell'Istituto Comprensivo Visconti di Roma, elementari e medie: rischiamo di tagliare del 50% italiano, matematica e inglese, non proprio bruscolini. Alla primaria potremo garantire la mensa e le lezioni dalle 8 alle 12. Con i fondi dei genitori, qualche attività extra il primo pomeriggio, i nostri bambini non avranno così le competenze necessarie. Domenico Squillace, preside del liceo scientifico Volta di Milano: vorremmo indicazioni più precise e ragionevoli. Ci stiamo organizzando con l'Università Scienze e Biologia, le faremo in piccoli laboratori esterni, ma al volto 1200 studenti pigiati anche in classi da 30. Con il distanziamento previsto ne potrò tenere un terzo. Teatri e cinema non bastano e la didattica a distanza è la corazzata Potemkin della scuola italiana. Non so come ne verremo fuori. Presidi che chiedono indicazioni più precise e chiedono anche più insegnanti, e su questo vi segnalo che Eugenio Bruno sul quotidiano Il Sole 24 Ore intervista la ministra Azzolina, la quale annuncia una novità interessante. Innanzitutto, va bene, graduatorie digitali e soprattutto l'arrivo di un sistema di call veloce degli insegnanti, i cui contorni non vengono poi chiaramente definiti all'interno appunto di questa intervista, di questo colloquio realizzato con Eugenio Bruno sul Sole 24 Ore. E però l'ipotesi di una call veloce degli insegnanti per averli presto a disposizione. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per la tua impresa. 24 mattino. Basterebbe fare i tamponi contemporanei con i test sierologici, uno vede tampone negativo, test positivo e se è a posto o viceversa. Per rilanciare il turismo, la cosa più semplice sarebbe dargli la stessa fiscalità dell'agricoltura, perché anch'essa è strategico per l'economia italiana, ma dipende molto dalla stagionalità, dai fattori di incertezza, tanto quanto l'agricoltura, che ha un sistema fiscale assolutamente agevolato che può essere replicato sul turismo. Vabbè, chissà se ci sente qualcuno dalle parti del governo e un pensiero ce lo fa. Arriveremo tra un attimo alle vacanze, caro Paolo Mieli, buongiorno. Dopo le vacanze. Il mondo sta esplodendo. L'America soprattutto. È una settimana oggi da quando è stato ucciso quel giovane nero soffocato, lasciami respirare, non riesco a respirare, gridava, e ci sono mappe, tutti gli Stati Uniti sono in rivolta, in tutte le città, pagina 14 e 15 del Corriere della Sera pubblicano le foto di queste città in rivolta, praticamente tutte, e morti, feriti, un'auto della polizia che è andata contro i manifestanti. Sì, tra l'altro la notte Paolo ha portato una specie di assedio alla Casa Bianca, nella quale si sono spente le luci, si è appreso che Trump è nel bunker, insomma, Trump fiamme. E ha detto che lui lancerà dei cani feroci contro questi manifestanti davanti alla Casa Bianca. E sembra Trump nell'angolo, sembra, perché ti dico sembra? Perché mi ha colpito, pagina 15 del Corriere della Sera, un'intervista a Jesse Jackson, che è un'icona dei diritti civili americani, del braccio destro di Martin Luther King, che dice: incoraggio le proteste, ma con maggiore disciplina. E se uno lo legge attentamente questa intervista, capisce che c'è una preoccupazione. Una preoccupazione, a parte un'ovvia preoccupazione, che uno vede, questi sono movimenti che non hanno un capo, no? Cose selvagge dappertutto, macchine bruciate, negozi adatti alle fiamme, ma la vera preoccupazione è che questa cosa non faccia, non porti a una ondata contro Trump, ma il contrario. E oggi Gianni Riotta sul Corriere, sulla Stampa, ricorda come l'estate del 68, che fu un'estate anche quella di fuoco e fiamme dei neri, portò, sembrava, anche perché era sull'onda dell'anno storico, sembrava che portasse all'elezione del candidato democratico, invece portò un trionfale successo di Nixon. Spesso nella storia americana la gente ha una reazione, anche quel popolo di mezzo che potrebbe votare da una parte o dall'altra, ma io perché mi devo prendere una sassata, uno sparo, vedere in fiamme la mia macchina? Sì. E tra l'altro c'è un altro editoriale sul Messaggero di Alessandro Rossini che riflette sul fatto che nel luglio del 2014 un altro militante, un altro afroamericano, Eric Garner, fu ucciso da un poliziotto bianco nella stessa identica modo a New York. Allora era al potere, era presidente degli Stati Uniti Obama, e si domandano: che strano, allora non accadde tutto questo? Probabilmente questo è un innesco, e la riflessione un po' di tutti è un innesco fra quello che è accaduto con la pandemia, anche questa, i giornali sottolineano che la pandemia colpisce più i neri dei bianchi ed è una cosa forse prevedibile date delle condizioni di disagio, ed è una sorta di strana rivolta misteriosa che non si capisce dove va a parare. Ecco, questo è il vero filo rosso. Cioè, è nata con un entusiasmo, tutti i post sessantottini che entusiasmi, che erano felici di una rivolta sociale contro Trump, sì. E invece adesso si capisce che non è in mano a nessuno. Veniamo proprio a Covid e così riveniamo all'Italia, alle questioni che ci riguardano. Insomma, qua c'è una mega discussione sulle parole di Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, il quale ieri da Lucia Annunziata ha detto che insomma la carica virale del virus è quasi esaurita o comunque molto bassa, che di gente nelle terapie intensive non le vedono più, e si riapre il dibattito tra scienziati, Paolo? Sì, gli risponde il Fatto a Zangrillo dicendo: resta di spiegare i 641 morti degli ultimi 7 giorni, ma saranno tutti suicidi questi 641 morti. In effetti questa storia che il virus si va attenuando forse non è mai stato di proporzioni, come sai, perché ne abbiamo parlato, è una discussione che si fa fin dall'inizio. Però io sarei prudente e oltretutto ne valuterei gli effetti psicologici di queste affermazioni. Certo. Mettiamo anche che abbia ragione Zangrillo, perché se noi abbiamo ritenuto, se tutto il mondo, 4 miliardi e mezzo di persone sono state chiuse in casa, hanno ritenuto di chiudersi in casa per 2 mesi per affrontare questa emergenza, forse incoraggiare le persone a comportarsi come se non esistesse, non esistesse è una sciocchezza, nel senso che poi, visto che l'abbiamo fatto, mettiamo, ripeto, anche che sia un errore, ma la saggezza ci imporrebbe di comportarci in modo conseguente, tanto più che il modo conseguente è di evitare assembramenti, portare la mascherina non è che sia una cosa, e non è che negare l'importanza di questo virus rimette in moto l'economia e ci rende tutti più liberi e felici. Quindi per uno scienziato c'è anche, capisco l'onestà mentale dello scienziato, c'è da valutare anche questo, anche l'effetto sociale. No? Scusa, prima che ci interrompiamo vorrei dire che Repubblica lancia un allarme a proposito di manifestazioni americane, perché sostiene con grande titolo in prima pagina 2 giugno, allarme. È addirittura l'apertura. Perché dice che domani Salvini, Meloni, Gilea, Arancioni, no fascisti, li mette tutti insieme, si mobilita in 100 piazze del paese per la festa della Repubblica. La mobilitazione in sé non è così importante, ma l'allarme appunto Repubblica lo lancia come se fosse l'inizio di una possibile rivolta. Sì, dopo la protesta dei Gilea Arancioni del fine settimana del generale Pappalardo. Ecco, secondo me le proteste guidate dal generale Pappalardo sono, sotto il profilo folcloristico, divertenti, però non portano a effetti simili né a quelli di Hong Kong, né a quelli degli Stati Uniti e neanche a quelli che si sono conosciuti qualche volta in Italia di grandi rivolte popolari. Così ho detto la mia. Ok, traffico e poi ci ritroviamo partendo da questo tema delle vacanze che sta facendo discutere. Quattro mattino. Confini interni e confini esterni, costo delle vacanze e bonus per le vacanze. Pagine, piene le pagine di giornali di questa storia, caro Paolo. Che il primo giugno si pensa alle vacanze, è una cosa abbastanza normale. Tutta la questione è questa. Detta prima in Italia, il governatore della Sardegna ha detto: attenzione, vorremmo porre un filtro all'arrivo qua in Sardegna dei lombardi e anche delle altre zone in cui il Covid è esploso. E poi la Grecia ha detto: no, noi ci vorremmo difendere. Allora grande indignazione nazionale, prima contro il governatore della Sardegna e adesso contro la Grecia, il ministro degli esteri si mobilita. Ieri la Grecia ha corretto, mettiamo il filtro non a tutti gli italiani, ma solo quelli che vengono dalle regioni più colpite, cioè Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Sì. Ma Zaia, il governatore del Veneto, ha risposto: ce ne ricorderemo, neanche uno di noi verrà in Grecia, fate schifo. Ora, anche qua, sommessamente, sottolineo sommessamente, vorrei dire la mia. Cioè, la Grecia, riuscendo a fare una politica oculata, che è un paese povero, con i disastri economici che ben conosciamo, è riuscita ad avere meno di 3.000 contagiati e 175 morti, laddove noi ne abbiamo avuti 33.000, 175-33.000. Che un paese così cerchi di mettere degli argini, a me sembra, insomma, abbastanza caso, normale, no? Ma tutto sommato. Tentata, anche perché tu vai in vacanza in Grecia, no, vero? No. Dimmi la verità. No. Fai patriota alla radio, poi vai in vacanza in Grecia. Se uno va in vacanza in Grecia o a Creta, in un'isola greca, sarà ben contento di ritrovarsi non in un'emergenza sanitaria che tra l'altro il paese non è in condizioni di affrontare. In un posto sicuramente Covid-free, no? Secondo me sicuramente Covid-free non si può dire, però insomma sono quei paesi che con delle cautele, anche pagando un prezzo, perché poi per i greci fermare l'economia ha un prezzo doppio che per l'Italia, insomma, Ci trovo qualcosa di esagerato. E poi quelli che si avvolgono la bandiera e che cominciano a dire voi attentate, ma qua stiamo affrontando una pandemia con delle regole che saranno più o meno sagge, ma discutiamo nel merito, non è che ogni volta che uno dice. E poi mi dà fastidio l'uso della parola lazzaretto. Allora, lazzaretto è un posto in cui, dice, non ci trasformate in un lazzaretto. Lazzaretto è un posto in cui si mettevano i malati o i sospetti malati, ma qua nessuno propone, che la Grecia propone di mandarci i suoi sospetti malati e metterli in Italia, quello sarebbe. Quindi c'è anche un uso, e quando si usano male le parole si usano male anche le idee, se permette. Bene, ottimo. Senti, vabbè, poi se voglio segnalare agli ascoltatori che a pagina 5 del Sole 24 Ore trovano tutte le perplessità che ci sono intorno al famoso bonus vacanze. Hanno ragione, perché io ho letto sia gli articoli di Flavio Landolfi e Valentina Medici, sia quelli di Giampaolo Ranocchi, Lorenzo Pegorin, che dicono sostanzialmente la stessa cosa, che questo bonus è articolato in una maniera tale con le differenze per chi ha una sola persona nel nucleo familiare, chi ne ha due, chi ne ha tre, in maniera tale che è difficile averlo. Quindi già questo bonus, insomma, e anche per gli albergatori è difficile ottenerlo, quindi sarà una cosa. Italiani, non fatevi illusioni, dopo aver letto pagina 5 del Sole 24 Ore vi renderete conto che se voi pensate di avere un sacco di soldi che vi dà lo Stato per andare a fare le vostre vacanze, prima leggete il Sole 24 Ore, comprate il Sole 24 Ore, rileggetevi pagina 5 e poi fate bene i vostri calcoli. Vedi che cosa hai scatenato. Un ascoltatore dice: sì, è vero, Simone ha delle ville a Santorini. Lo sapevo, guarda, io non lo volevo dire. Però ormai è così. Vedi la maldicenza. Ma non è maldicenza, spesso qualche volta sfugge una parola di greco. Andiamo avanti. Caro Paolo, poi c'è tutto il fronte economico, naturalmente. Ci sono state le parole nei giorni scorsi del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sulla politica, che non deve essere la politica dello struzzo, no? Ne abbiamo parlato. Una politica che può essere più dannosa del virus se agisce male. Registriamo qualche risposta piccata oggi, a partire da quella del presidente, del ministro Gualtieri, dell'economia, Gualtieri, no? Sì, Gualtieri, anche qui. Rispondono: no, ma come si fa a paragonare l'effetto del virus? È ovvio che sono parole figurate. Allora, tutti quelli che paragonano quello che sta succedendo alla Seconda Guerra Mondiale all'Olocausto, è evidente che esagerano, no? Anche per quantità di morti non si possono non si potrebbero fare paragoni, ma il paragone fatto da Bonomi non lo voglio difendere, per carità, e poi soprattutto dai microfoni della radio del Sole 24 Ore, però io andrei alla sostanza. E cosa ha detto Bonomi? Bonomi ha detto: guardate, ci sarebbe bisogno di ricorrere al MES subito, non copritevi dietro quello che fanno altri paesi, e non copritevi, perché voi state coprendo le divisioni che ci sono tra il PD e il Movimento 5 Stelle, quindi per delle meschine divisioni politiche non fate ricorso al MES quando i soldi del Recovery Fund arriveranno molto tardi e invece il MES lo avremo subito. Affrontate subito questo tema. Ha detto una cosa, vedi quanto è semplice dirla in due parole, si capisce. Sì. E loro rispondono menando il campo e l'aia, dicendo non si possono fare paragoni, allora vedremo il MES, lo esamineremo. Ma no, ci sono delle scelte che vanno fatte subito, esamineremo, vedremo, soprattutto se esamineremo e vedremo è fatta per i tempi della politica, non per i tempi che richiederebbe una energica scelta economica. Però sì, ripeto, non difendo Bonomi, anzi smetta Bonomi di fare paragoni con la guerra mondiale o con pandemia e politica. Ecco, facciamo un'energica esortazione oltre a te a vendere quelle ville in Grecia a Bonomi di non fare più quei paragoni. Maledizione. Allora, caro Paolo Mieli, abbiamo poco a proposito di tempi. I tempi stringono e non possiamo non parlare ovviamente di tutta la vicenda della magistratura. Oggi registriamo, tutti i giornali riportano dell'intervista rilasciata ieri a Giletti da Luca Palamara, l'uomo al centro delle cronache di queste ore. Devo dire che Giletti sta facendo un eccellente lavoro la domenica sera sulla 7, perché rilancia, ha lanciato il caso di Matteo, poi il caso Bonafede, insomma questo eccellente lavoro, anche perché di Palamara ogni giorno escono nuove intercettazioni dei suoi dialoghi captati da Trojan. Te ne leggo un pezzettino oggi sulla Verità, che se la prende con Auriemma, un giudice procuratore, Paolo Auriemma, responsabile, questa volta non è Salvini ma Berlusconi, dice: mai saputo che tu fossi un berlusconiano di destra, sei di destra, dice Auriemma, questo poveretto si difende, io non sono berlusconiano di destra, ma chiunque può dire qualsiasi stronzata e non viene derguito, mentre io, lo dice uno dei nostri, che addirittura ha messo sotto processo Berlusconi e gli dicono berlusconiano. È un dibattito per una cosa, sì, a proposito della legge Severino. Insomma, si viene a capire che non è tanto che i giudici sono gli ordini della politica, ma che loro si comportano come soggetti politici. Guarda che una differenza importante. Sì. Cioè loro fanno politica, si sentono dei padri eterni, fanno i giudici magistrati. Sì. Comunque, se vuoi sapere come va a finire, secondo me è molto saggio quello che dice Luca Ricolfi in un'intervista a Piero Senaldi, a pagina 3 di Libero, che dice: lo scandalo di intercettazione alla magistratura è destinato ad avere effetti o si spegnerà? Ricolfi risponde: non mi sembra che il grande pubblico se ne curi, tende a pensare che metteranno qualche toppa e la gente penserà presto, passerà d'altro. passerà oltre. Allora, caro sei Paolo, d'accordo con Ricolfi? Non lo so, sinceramente non giudico. Però può darsi, non è quando vai in vacanza in Grecia. Non è quando sarò nelle ville. Cristo non ne parliamo. Non facciamo in tempo, purtroppo, però, la morte di Cristo. Una parola, sì, diciamola, che è stato un grande, sì, che ha impacchettato mezzo mondo ed è una delle cose che ci hanno lasciato un grande segno. Tu sei stato sul Lago d'Iseo? Sì, sì, ci sono stato a vedere quell'installazione, che le Floating Piers di Cristo, bellissime. Ci avevo fatto anche un racconto qua per la radio. E allora mandalo, scusa, sì, in occasione faremo della morte di Cristo. Adesso ripescherò qualcosa. Grazie. Vabbè, Paolo Mieli, ci sentiamo mercoledì. Se non sarà in Grecia, naturalmente. Grecia. Ho delle ville con mega terrazzoni acquistate con Parenzo, scrive un ascoltatore. Va bene, ciao Paolo, a mercoledì.